Il punto di Stefano Folli. È interessante il commento di Mario Draghi alla domanda sul perché i mercati sono rimasti in fondo indifferenti all'impasse politica in Italia. Perché, dice il presidente della BCE, rispettano le elezioni, si tratta di democrazia, e comunque attendono le riforme. Naturalmente non significa che le borse all'improvviso non si preoccupano più se un paese piomba nell'incertezza, però è vero che il singolo dato nazionale non è sufficiente a un cambiamento di rotta. Occorrono altri fattori di tipo globale in un continente dove si vota di continuo. Diciamo allora che se l'Italia si dotasse in breve di un governo solido, capace di attuare un programma ambizioso di riforme, i mercati reagirebbero con entusiasmo. Se invece si resta in uno stato di ordinaria palude, come sta accadendo da noi, reagiscono con stanchezza, ma si aspettano che prima o poi qualcuno governi, altrimenti potranno sempre colpire e duramente.